100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Siamo d'accordo che siamo in disaccordo. Con questa battuta il ministro alle finanze tedesco, il falco Wolfgang Schäuble, ha gelato ogni aspettativa della Grecia dopo l'incontro col suo corrispettivo ellenico Varoufakis. In realtà l'incontro ieri è avvenuto dopo la doccia fredda che la Banca Centrale Europea ha regalato ad Atene. Molti osservatori fanno notare che se la borsa ieri, dopo un calo, un brusco calo iniziale di oltre il 10%, ha chiuso con un calo più accettabile del 3,5%, è perché gli operatori finanziari hanno capito che la mossa della Banca Centrale Europea era più di carattere politico che non finanziario, nel senso che le banche greche potranno accedere alla liquidità grazie al canale dell'Emergency Liquidity Assistance, ma quello che Draghi ha voluto fare è sostanzialmente di sfilarsi fuori dalla diatriba Atene contro Bruxelles e impedire che la Grecia utilizzasse la Banca Centrale Europea come scudo per future rotture di patti. Detto ciò, la situazione si complica. È vero che il governo incassa una piazza a Piazza Sintagma per la prima volta a favore di un governo e non contro il governo. Ma la mossa dell'altro ieri e l'incontro molto freddo con Schäuble fanno capire agli esuberanti Varoufakis e Tsipras che il roadshow va bene, le telecamere sono a loro favore, ma gli accordi sono ancora là da venire. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La riforma del catasto, attesa e annunciata da molti anni, comincia a prendere forma. Il governo è pronto ad approvare in tempi brevi il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega fiscale, fisserà i nuovi criteri estimativi, vale a dire le regole di base che serviranno per determinare il valore fiscale di tutti gli immobili. Il passaggio è delicatissimo e non necessariamente indolore, perché il valore fiscale degli immobili rappresenta la base utilizzata per calcolare le tasse sugli immobili, e visto quel che è successo negli ultimi anni con gli aumenti giunti con l'arrivo dell'IMU e della TASI, è sempre meglio stare allerta. L'operazione che il governo si appresta a lanciare è complessa e richiederà tempi non brevissimi, qualcuno dice almeno 3 anni, forse ancora di più. Il meccanismo descritto nel decreto che verrà approvato a breve prevede che, tramite la raccolta di un'infinità di informazioni e anche attraverso l'utilizzo di stime, si andrà ad alimentare una funzione statistica, per la precisione un algoritmo, che sarà impiegato appunto per calcolare i valori fiscali delle case, degli uffici, dei negozi. E qui veniamo alla vera domanda: ma in futuro pagheremo più o meno tasse? Beh, diciamo che le anticipazioni sul decreto con i criteri estimativi confermano la clausola antirincari applicata su base nazionale, che prevede appunto l'invarianza di gettito. Né lo Stato né i comuni potranno incassare più di quanto incassano ora. Non è chiaro però chi controllerà. Di certo, se è vero che alcuni proprietari potrebbero avere dei benefici, è altrettanto certo che le nuove rendite si tradurranno in tasse più salate per altrettanti cittadini. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.